Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah, I love Italy. Con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. Cari amici e care amiche, benvenute e benvenuti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è la trasmissione in lingua italiana, i 15 minuti di I Love Italy, questo contenitore che vi parla in lingua italiana e vi porta per mano alla scoperta dall'Italia sotto il profilo musicale, artistico, teatrale, cinematografico. Al microfono Andrea Mangiarotti, o se preferite, al microfono Andy Mangiarotti. Queste sono le coordinate per ascoltarci. Siamo in diretta sui 7780 kHz via Double RMI, Radio Miami International. Al programma potete collaborare in molti modi, mandandoci, se volete, una mail al nostro indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, se volete inviarci anche un rapporto di ricezione. E poi abbiamo l'indirizzo fisico proprio della radio: WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se volete magari inviarci un rapporto di ricezione in formato cartaceo. E poi abbiamo anche il numero per mandare solo ed esclusivamente messaggi WhatsApp. Per chi scrive da fuori dall'Italia, più 39 377 456 3033. Più 39 377 456 3033. Benvenuti a bordo di I Love Italy. Iniziamo il programma odierno salutando un amico che ci scrive una mail. Saluti a tutti amici di I Love Italy. Io vi saluto con piacere. Sono Ivan Alejandro Istahuaca Carlos. Sono un ascoltatore messicano, ascolto le onde corte da più di 15 anni. Oggi ho avuto l'opportunità di ascoltare il tuo programma in lingua italiana via Radio Miami International. Questi sono i dati tecnici d'ascolto. Data 3 marzo, ora UTC 1:35, frequenza 7780 kHz e 5850 kHz per un SIMPO 55445, quindi direi ottimo potenza di segnale. Ci ha ascoltato con una radio portatile, un'antenna a filo lungo 10 metri e mi fa sapere che ha apprezzato molto il programma, il tema, il formato di I Love Italy. Ebbene, vorrei ricevere maggiori informazioni sulle frequenze e sugli orari di trasmissione del vostro programma. Vi saluto in attesa di una vostra risposta. Vi mando un forte abbraccio. Ivan Alejandro dal Messico. Salutiamo Ivan Alejandro e lo ringraziamo per aver scelto la Double RMI e in specifico di aver scelto I Love Italy. Se anche voi volete scriverci, andrea@mangiarotti.org. RG. Poi abbiamo i nostri siti internet, quello ufficiale di Radio Miami, wrmi.net, wrmi.net, o se preferite voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. Li trovate i contatti per scriverci e, perché no, anche per richiedere una cartolina QSL, che ora cercheremo di inviare appena possibile, perché purtroppo è ancora presente questa brutta pandemia. Va bene, va bene. I Love Italy di quest'oggi: recentemente si sono tenuti gli Oscar cinematografici negli Stati Uniti. Purtroppo l'Italia è rimasta secco anche quest'anno, ma purtroppo il cinema italiano è un po' particolare, è difficile entrare nelle menti, insomma, di chi non è italiano, e forse è anche un po' complicato far apprezzare i nostri capolavori all'estero. Benigni ce l'ha fatta, Fellini ce l'ha fatta, speriamo per il futuro. Va benissimo. Nella puntata odierna di I Love Italy continuiamo a parlare di cinema. In particolare, in queste settimane si sono svolte due ricorrenze importanti. La prima è il centenario dalla nascita del grande attore romano Nino Manfredi, che per l'appunto il 22 marzo del 1921 è nato e avrebbe compiuto 100 anni. Sempre nello stesso mese di marzo è nato anche il grande Ugo Tognazzi, che quest'anno di anni ne avrebbe compiuti 99. Quindi per l'anno prossimo si prevedono grandi festeggiamenti, pandemia permettendo, a Cremona e non solo, anche a Roma verrà ricordato il grande attore cremonese. Nino Manfredi è stato ricordato attraverso un bellissimo libro scritto dal figlio e attraverso un bel po' di passaggi televisivi nei principali broadcasting network italiani. Noi di I Love Italy quest'oggi vi parliamo veramente velocissimamente di Nino Manfredi. Nino Manfredi era nato a Castro dei Volsci il 22 marzo del 1921. È stato un attore, regista, sceneggiatore, comico, cantante e doppiatore italiano. Interprete versatile, incisivo, tra i più validi e apprezzati del cinema italiano, nel corso della sua lunga carriera ha alternato ruoli comici a drammatici con notevole efficacia, ottenendo ovviamente numerosi riconoscimenti. Ha iniziato la sua carriera proprio intorno agli anni 40, quando si doveva laureare in... doveva praticamente prendere una laurea, doveva diventare avvocato. Si laureò con 93 su 110, ma non esercitò mai la professione di avvocato, benché prese la tesi in diritto penale. Nel giugno del 47, invece, forse era più importante per lui questo, si diplomò all'Accademia d'Arte Drammatica, ed era il 47, proprio un anno dopo, no, due anni dopo terminata la Seconda Guerra Mondiale. Inizia a esordire nei vari teatri romani, storico il suo esordio al Teatro Piccolo di Roma sotto la direzione del maestro Orazio Costa nella compagnia Maltagliati Gasman. E iniziò così, insomma, la sua carriera di grande attore teatrale. Abbandona la prosa nel 51, quando esordisce soprattutto in alcuni cinema, però mi sembra doveroso ricordare il bellissimo, la sua bellissima parentesi nel Teatro della Rivista insieme a Garinei e Giovannini. Siamo nel 62 e insieme ad Aldo Fabrizi e Bici Valore interpreta per l'appunto Rugantino. Fece una bellissima tournée proprio con loro anche negli Stati Uniti, dove venne molto apprezzato da quegli italiani, insomma, che erano emigrati negli States per fare fortuna. Esordisce anche al cinema, siamo nel 49, con quelle pellicole musical sentimentali in chiave partenopea. Potremmo ricordare Torna a Napoli di Domenico Gambino, poi fa dei piccoli cammei anche con Totò in Totò e Peppino la mala femmina, e in altri altre pellicole divertenti del periodo. Nel 1956 esordisce in quella che poi diventerà la grande TV di Stato, la RAI. Erano i primi anni, insomma, che la RAI era in onda. Nel 1956 esordisce nello sceneggiato L'Alfiere, diretto da Anton Giulio Maiano. Sempre nel 1959 ottenne un importante successo di pubblico nella mitica Canzonissima, per la regia di un grande regista, Antonello Falqui. E poi a Canzonissima porta in scena la sua macchietta, il personaggio Bastiano, il barista di Ceccano, che ottenne un sacco di riconoscimenti e fece ridere veramente gli italiani di quel periodo. Sempre nel 59 fu uno dei protagonisti di Audace colpo dei soliti ignoti, diretto da Nanni Loi, sequel del fortunato film I soliti ignoti, questa volta però era diretto da Mario Monicelli. Venne inoltre chiamato a prestare la voce in alcune voci fuori campo in alcuni film, dove interpreta per l'appunto il barista di Ceccano. Qua è con Totò Fabrizi e I giovani d'oggi, siamo negli anni 60. Negli anni 60 partecipa ad altri film drammatici, alternando un po' la commedia ai film drammatici del periodo. Operazione San Gennaio del 67, diretto da Dino Risi, e poi proprio sul calare degli anni 60, al crepuscolo degli anni 60, lo ritroviamo in Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso. E sempre del 69, no, nel 68, sempre con Ugo Tognazzi in Straziami, ma di baci saziami. Questi sono gli anni 60, la chiusura definitiva del 69 con Nell'anno del Signore di Luigi Magni. Arriviamo agli anni 70, 1973, interpreta forse uno dei suoi film più belli, Pane e cioccolata, che porta veramente al cinema l'immigrato italiano in Svizzera, i sacrifici che fa per vivere. Poi C'eravamo tanti amati, di sempre dello stesso Luigi Magni, Brutto, I sporchi e cattivi, Il nome del Papa Re. Ed arriviamo Lemme Lemme agli anni 80, quando interpreta una pellicola particolarmente divertente e carina. Sto parlando Caffè Express. Caffè, caffè lungo, latte e cappuccino. Il caffè è un amico che vi tiene sveglio, ma fa stare più allegri e qualche volta evita i dispiaceri. Questo era un estratto da Caffè Express, dove impersonava proprio Bagnano Michele, questo napoletano che vendeva il caffè abusivamente sulle vecchie carrozze delle Ferrovie dello Stato. Ottiene anche un nastro d'argento e 5 David di Donatello. Poi nel 1990 viene chiamato per ricoprire il ruolo di Ceccarucchio in Un nome del popolo che combatte e muore per la libertà di Roma. Interpreta questo ruolo sempre per il regista Luigi Magni. E poi ci sono altre cose importanti, sempre per il nostro caro Nino Manfredi. Pur essendo sempre stato dichiarato ateo e abbia funerali religiosi, dopo il funerale, il 7 giugno, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, alla presenza di 2000 persone tra volti noti della politica e dello spettacolo, viene seppellito al Verano di Roma questo grande attore romano. Quest'oggi ad I Love Italy abbiamo ricordato il grande cinema italiano e abbiamo ricordato lui, il grande Nino Manfredi. Questi applausi sono tutti per lui. Bene, cari amici delle onde corte, I Love Italy termina qua. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente sempre sulla Dabur RMI. Da Andy Mangiarotti è tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e ci sentiamo presto. Mi raccomando, ora i programmi di Radio Miami International continuano nella vostra lingua. Da Andrea è tutto. Bye, ciao, grazie.